Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. È assurdo dividersi fra chi staccherebbe e chi non staccherebbe il sondino a Eluana, fra chi l'ucciderebbe e chi non l'ucciderebbe. La battaglia politica è per l'autodeterminazione, cioè per stabilire chi deve decidere se il singolo o lo Stato. Ci deve essere una legge generale che risolva una volta per sempre, in un modo o nell'altro, tutti i dubbi. I suoi, i miei, eccetera. Oppure lo Stato deve riconoscere che una decisione come questa, così complessa, così difficile, eticamente e religiosamente, può essere presa solo caso per caso da ogni persona, individualmente, secondo la propria volontà, i valori, la religione, le esperienze di vita. Io personalmente credo che lo Stato debba lasciare questa scelta alla coscienza individuale. Si dibatte fra uccidetela, non uccidetela, e non si affronta fino in fondo il tema dello Stato e dell'autodeterminazione. Riguardo alla spettacolarizzazione, sono in molti che hanno detto che il padre avrebbe potuto portare avanti la sua battaglia lontano dalle telecamere, senza dir nulla a nessuno, come fanno tutti. Ma io non credo sia stato il desiderio di notorietà la ragione che ha spinto il padre di Eluana a farne una battaglia pubblica. In Italia siamo abituati a doverci arrangiare perché le leggi sono quello che sono, perché se anche c'è una legge, nessuno la fa rispettare, eccetera. Ma non dovrebbe essere così. Sia lo Stato che la politica non possono far finta di non vedere e di non sentire e consigliare a chi si trova in situazioni come questa di arrangiarsi lontano dai riflettori. Pietro. Lettera aperta a Eluana Englaro. Cara Eluana, mi piace immaginare che il tuo spirito sia ancora tra noi, in attesa di poter volare definitivamente in cielo. Sia fatta la tua volontà, dunque. Ti hanno portato a Udine, la mia città, proprio per questo motivo. In televisione ho già sentito dire che la mia è terra di morte, perché c'è stata la Prima Guerra Mondiale. Fra qualche giorno tutti la smetteranno finalmente di dividersi e polemizzare sulla tua vicenda e anche di dire certe sciocchezze. Ritornerà finalmente il silenzio. Ma prima spero che, a differenza del povero Welby, tu possa avere un funerale religioso, meglio privato, come segno di misericordia e di pietà da parte della Chiesa. Ci sono voluti 17 anni per morire. La tua croce l'hai portata abbastanza, anche se forse non avresti voluto. E chissà quanto tempo avresti dovuto o potuto ancora vivere prima che la tua morte naturale ti portasse con sé. Mi auguro che in futuro non ci siano più casi a livello mediatico analoghi al tuo e che i nostri politici varino una legge sul testamento biologico, preferibilmente non con decreti ministeriali, magari con il voto di fiducia in cui noi cattolici possiamo finalmente esprimere liberamente la nostra volontà di accettare la vita in stato vegetativo o in altre condizioni estreme. Vita ad ogni costo, dunque, senza chiederci ad esempio se i trapianti di organi siano eticamente compatibili con la naturalità della vita, magari espiantati e condannati a morte appena uccisi, come succede da qualche parte del mondo, sempre in nome della difesa della vita. Mi piacerebbe che la Chiesa potesse argomentare a proposito, ma poi accettasse comunque l'esito dei lavori parlamentari, anche se incompatibili con gli insegnamenti del Magistero, senza avere la tentazione di usare qualche ministro bigotto per imporsi comunque. In gioco c'è la laicità dello Stato, ma anche la credibilità della Chiesa, la quale, a mio avviso, dovrebbe rivolgersi direttamente alla coscienza di ogni uomo, ultimo e unico arbitro a cui ognuno deve rispondere. I laici, o meglio i laicisti, potranno finalmente gioire quando sarai definitivamente morta, per l'ennesimo colpo inferto al clericalismo italiano, dopo aver usato, come nel caso Welby, strumentalmente la tua vicenda. Bella soddisfazione. Infine, mi auguro che il tuo papà venda poche copie del suo libro. Non è coerente chiedere rispetto e silenzio sulla vicenda dopo essere stato in televisione a presentare il suo libro. Io non lo leggerò. Avrei preferito non conoscerti, Eluana, ma non è stato così. Marco. Caro direttore, premesso che faccio parte della minoranza degli italiani che è indignata per le minacce ricevute da Rita Bernardini a seguito della visita in carcere ai sei rumeni, ricordo anche che in Italia lo stupro è reato contro la persona e non contro la morale dal 1996. Non è poco, ma non è neanche tanto. Avevo 18 anni quando la legge fu cambiata e rimasi sconvolta. Non mi sembrava nemmeno immaginabile che prima di allora lo stupro potesse essere un reato contro la morale pubblica. Livia. Qualche anno fa sono stato aggredito per la strada, senza alcuna motivazione. Durante l'attacco ho reagito e, quando ne ho avuto l'opportunità, ho cercato di uccidere con un'arma di fortuna la persona che mi aveva aggredito, per puro istinto di difesa della mia vita. Per un fortunato caso, questo non è successo. L'aggressore è stato arrestato, eccetera. In quei momenti, il cervello passa in uno stato in cui non si ha controllo razionale. Si passa, anche se per pochi secondi, in uno stato puramente animale. La reazione è brutale e non controllata. Non si ha cognizione alcuna di quello che accade. Si reagisce in modo totalmente istintivo. La giustizia deve tenere conto di questo. La colpa è unicamente dell'aggressore. Gianluca. L'idea di base dell'attuale liberismo, meglio dire libertarismo economico, è quello di fare utili il più possibile ora, senza avere un minimo di visione imprenditoriale e di sviluppo. Questo ha portato a cercare margini e profitti sempre più alti, utilizzando manodopera a basso costo nei paesi come Cina e India. Il problema è che questo fenomeno non è stato controllato e ha sbilanciato pericolosamente la nostra struttura produttiva, quella del famoso valore aggiunto. Così, sempre più aziende delocalizzano e danno il compito di produrre ad aziende di paesi appartenenti ad esempio all'area BRIC, ovvero Brasile, Russia, India e Cina. Così vi sono fenomeni che, se accadono in larga scala, possono mettere a rischio le economie del cosiddetto Occidente. Riduzione dei posti di lavoro, con conseguente diminuzione della possibilità di spesa, cioè crisi dei consumi e quindi dell'industria. Diminuzione degli investimenti in Occidente, con conseguente depauperamento del nostro parco industriale. Questo aumenta il rischio di dipendenza da paesi che proprio democrazie non si possono definire e che in futuro potrebbero alzare i prezzi a loro piacimento, infischiandosene delle leggi che regolano il mercato. Depauperamento del capitale umano. Se non vi sono attività produttive, la ricerca, che rappresenta la garanzia di restare sul mercato competitivo, tende a ridursi e a scomparire. La soluzione non è facile, ma occorre un po' più di controllo sui movimenti di capitale, sia monetario sia di conoscenza. Si può, ad esempio, costruire parchi tecnologici in cui le industrie che investono in ricerca e sviluppo abbiano facilitazioni effettive come detassazione, supporto da parte delle università locali oppure finanziamenti su base progetto che invoglino le aziende a rimanere in un certo contesto. Parlo ad esempio del tragico caso italiano, dove abbiamo ottimi ricercatori nel campo delle comunicazioni e IT che costano poco, ma che non trovano industrie nelle quali impiegarsi. Penso che in parte Sarkozy abbia ragione nel dire che chi prende i soldi per l'auto non può poi però delocalizzare, altrimenti alla fine i soldi vanno nei paesi verso cui si fa outsourcing. In parte però ha anche torto, dato che si cerca di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Claudio. A proposito della brutta vicenda dell'estradizione del latitante Cesare Battisti, richiesta dalla magistratura italiana e negata da quella del Brasile, vorrei ricordare a chi ha la memoria corta che quel paese ospitò un buon numero dei peggiori assassini del regime nazista, fuggiti dalla Germania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Evidentemente quel paese continua a dimostrare una certa attitudine ad ospitare e proteggere personaggi che la civiltà occidentale qualifica e condanna come delinquenti. L'aver definito Battisti come rifugiato politico è una pericolosa falsificazione della verità. Il rifugiato politico è colui che, perseguitato nella sua patria a motivo delle sue convinzioni politiche, trova rifugio e protezione in altro paese. Ma un assassino rimane tale anche se si ritiene motivato da una qualsivoglia ideologia, altrimenti potremmo arrivare a giustificare persino gli autori dell'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, avvenuto ad opera dei fascisti nel 1924. Senza parlare dei numerosi delitti ad opera dei brigatisti, che hanno insanguinato l'Italia dal 68 ad oggi. Alberto da Pisa. Il nostro è un paese immaturo. Lo dimostrano le polemiche per il rientro di Battisti, immediatamente scivolate sul dibattito partita sì, partita no. Ma lo dimostra anche l'intervento delle parlamentari del PDL in polemica con la hostess pasionaria. Mi viene il dubbio che la politica anche stavolta abbia cercato e trovato visibilità commentando accadimenti squisitamente televisivi. Grave, tuttavia, è il messaggio della Martani, che strepita per l'acquisizione di un diritto al lavoro, di hostess, che lei stessa ammette di odiare, in favore del canto e del ballo. Quando capiremo, noi italiani, che il lavoro non è un diritto, ma è un riconoscimento sociale del nostro valore? E che dire dei sindacati che si oppongono alla chiusura della fiction Rai, La Nuova Squadra? Con la sua fine si perderebbero circa 200 posti di lavoro. E allora? Allora la fiction diviene anch'essa oggetto di diritto. Il diritto alla fiction Rai di quartiere. Abbandoneranno mai gli italiani l'habitus dei bamboccioni? Francesco. Senza voler essere polemico, mi ritengo al di fuori dell'arco costituzionale perché non mi sento rappresentato. Anzi, mi sento derubato, sia economicamente che moralmente. Ho sempre votato per un partito minore, malgrado cambiasse nome sovente, e comunque contro questa pagliacciata di bipartitismo. Essendo in democrazia, mi ritengo libero di poter scrivere ciò che penso senza offendere nessuno. Il mio voto è sempre stato e sempre sarà inutile. Nessuno può invitarmi a votare utilmente solo perché fa comodo. Ora vengo invitato a consumare e spendere. Conscio che se ciò non accade, molti perderanno posti di lavoro e quant'altro. Ebbene, ho sempre lottato contro questo sistema di consumismo, di economia, di globalizzazione. Ed ho sempre cercato di risparmiare per il bene delle mie figlie. Povere, che futuro le aspetta? Ora mi dicono che devo cambiare macchina, mobilio, andare in vacanza, al ristorante, eccetera. Ora io, minimalista, minimalizzo ancora di più. Questo è un mio voto. Un voto contro chi mi ha messo e mi mette le mani in tasca. Un voto contro chi ha, soprattutto, anteposto il denaro alle relazioni e ai rapporti tra persone. Continuerò a votare così ogni giorno, riducendo, se posso, i miei consumi ancora di più. Potrei essere scambiato di estrema sinistra, ma gli opposti si attraggono. Sono un ex militante MSI e convintissimo fautore di una destra sociale. Gino. Buongiorno. Vi scrivo per segnalare il mio disappunto di fronte all'ennesima dimostrazione, a mio avviso, di scarsa spinta di rinnovamento e di svecchiamento che il nostro paese dimostra. Mi riferisco alla nomina di persone piuttosto grandi di età per ricoprire cariche sociali di assoluto vertice, come quella di presidente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la recente nomina del dottor Sergio Zavoli alla presidenza della Commissione di Vigilanza Rai. 86 anni. Vincenzo. Cara Radio 24, da ogni fonte di informazione, ultimamente, ci viene delineato un futuro molto prossimo di una recessione che potrebbe sfociare poi in una crisi planetaria. E i segnali emergono giornalmente dal grido di dolore dei comuni privati dell'ICI, ai tagli del bilancio dei vari ministeri, alla scuola, alle università, alla mancanza di fondi per la protezione civile, i cui esiti così drammaticamente si sono evidenziati in questi ultimi giorni sulle nostre strade, alle case automobilistiche, che disertano i gran premi della Formula 1 per motivi di bilancio, per non parlare delle quotidiane difficoltà delle famiglie italiane, dei 300.000 posti di lavoro a rischio nel settore auto. E la lista potrebbe continuare. Ma io mi chiedo, tra i 945 nostri parlamentari, ai quali potremmo aggiungere i senatori a vita, ce n'è stato uno che abbia proposto una revisione, magari solo temporanea, del diabolico meccanismo di finanziamento ai partiti, denominato a suo tempo e pudicamente rimborso elettorale? Valsa questa revisione ad alleggerire in qualche modo il costo del palazzo? No, non lo credo proprio. E di fronte alla palese protervia ed ingordigia della casta nostrana, l'ottimismo al quale in molti ci dicono di appellarsi resta una semplice retorica enunciazione. Angelo. Caro Angelo, non vorrei aggiungere nessuna parola alla sua lettera. Sono perfettamente d'accordo. La politica non dovrebbe solo approvare provvedimenti adeguati, dovrebbe anche dare il buon esempio. E le possibilità sarebbero molte, dalla riduzione dei compensi, che sono peraltro i più alti d'Europa, a misure di risparmio su capitoli significativi dei costi della politica. Con una semplificazione degli apparati dello Stato, per esempio con quell'abolizione delle province, non tanto della struttura amministrativa, quanto dei presidenti, assessori e consiglieri provinciali, che sono altrettanti centri di costo e di spesa. Sarebbe un passo utile per ridare fiducia e credibilità a un sistema democratico che deve essere difeso e valorizzato. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.